se troppo hai, con niente ti ritroverai. Cosa c'è? Che se vivere come fai tu, non si può. E io lo so, Emanuele, io lo so, che tu cerchi ormai qualcosa che non troverai. Passa, corre, vola, e ti senti sempre più solo.